Vedo le mie felpe più belle ora che han buchi sopra. Ricordano ciò che davvero splenda, sempre dietro una realtà tutt'altro che luminosa. L'arte è il mio concetto di eleganza ed è una sudicione. Ora pare che trovo più piacere nel disagio. Si sa il cuore si stacca da una mente giudiziosa. Dice che cercare, io lo faccio come faraoni. Che poi mi sentirò parte di questo mondo, solo da sottoterra. Come chi rompe la metro con una bomboletta. Ma il buio sta come felini, nel fumo sta come fenici. Faccia a faccia col mistero, ispirazione mi dà concretezza più di fatti empirici. Quando cercare tanto da vederti distante fa sentire sempre più vicini come fottute vertigini. Mi accendo una bomba in mezzo, il fumo nel vederlo scretolarsi mi dà compattezza. Mi ricorda che dove non hai ancora capito c'è passione, lascia fame come tigri di Mon Pracema. Qua il cielo tocca terra, cielo tocca terra. Come un faraone, se corro per vederlo arrivo e per vederlo mai davvero concepito, faccio queste maratone per far sì che sta roba non abbia fine e non ha paragone. Tu la fai come chi non vede il futuro sotto un palazzone, la picchi in un capannone. Io come chi sa che il fondo è ad essere distante, sempre più espressivo per uno scalatore. Che vedere una cosa più a fondo e andare dove meno vede ed è insolito. Le cose che più tra le mani, pare che meno si incontrino, un paradosso. Come il fatto che chi è fuori è perché è chiuso come uno psicotico. Vedo il buio come un writer, so che mostra sempre di più, più rimane incognito. Mi sento come L.J. Edgar Allan Poe, so che c'è così tanto. Perché se vedere fosse ciò che sta alla luce non sarebbe un cazzo. Per questo anche quando tutto si è spento sa spalancare gli occhi come con la Marcord. Che su un alto piano non sembra di stare in alto, è strano che guardi in basso. So che non è vedere ciò che sotto lo sguardo, su quest'aeroplano che volo me ne accorgo quando cado. Passo da bene a male niente, tipo chiesa sconsacrata. Come roba che passa da immortale a immortalata. Viceversa d'altro canto, sto tra le vie come Shiva. Tu tra le vie come chi va via, ma il suono è meditativo. Guarda quanti meditativo, curano la mia misantropia. Ora vedo più luce nel buio dove non si vede. Una diga non è fatta per contenere. Il cuore vede sempre oltre ciò che sta alla luce ed è qualcosa che fa scorrere per poterne godere qua giù. Che il cielo tocca terra, che il cielo tocca terra, che il cielo tocca terra.